Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. It can't be wrong. Oh, Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, affermando una prospettiva nuova che superi l'antropocentrismo e restituisca spazio vitale e libertà a tutti i viventi del pianeta, soprattutto i non umani, con i quali è possibile e necessario negoziare un nuovo patto di convivenza più equo. Per questa redazione ogni vivente, umano o non umano, è meritevole dello stesso rispetto. E questa è la puntata numero 643, nella quale parleremo della giornata della biodiversità, che è stata domenica 22 maggio, una giornata della quale noi parliamo naturalmente con qualche nota critica, alla nostra maniera. Vi proponiamo i risultati del primo grande monitoraggio nazionale del lupo, uno sforzo straordinario che è stato fatto in tutta Italia. Infine incontreremo la lontra, un animale misterioso, in Italia quasi scomparso e ancora a rischio estinzione, ma che secondo il WWF potrebbe tornare ad affermarsi nel nostro paese e noi faremo il tifo per la lontra. Non mancherà, come sempre, tanta buona musica e un'ottima ricetta cruelty free. Speriamo di avervi incuriositi. Quando il diavolo passa la fattura, o se alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Biodiversità è una strana parola, oggi tanto usata, anzi abusata. Una strana parola a cui si è pensato bene di dedicare l'ennesima giornata mondiale, quella di domenica 22 maggio, per celebrare appunto la biodiversità con momenti didattici per i bambini, con la diffusione di bustine di semi per le api, momenti di immersione mistica nella natura, abbracci agli alberi e tante altre cose bellissime. Per diffondere una cultura di rispetto verso l'ambiente in cui viviamo e soprattutto verso gli altri animali che lo abitano, la cui vita è costantemente minacciata dai nostri comportamenti. Spesso però questi eventi si riducono a una bella giornata al parco coi bambini, senza però aprire un dibattito vero su questi temi. Non è quello che ha fatto l'ENPA, Ente Nazionale per la Protezione Animali, che in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si è appunto celebrata il 22 maggio, ha scritto al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani per chiedergli di rivedere radicalmente le sue sconvolgenti posizioni sui dati delle migrazioni dell'avifauna e sull'inaccettabile cacciabilità della tortora e delle altre specie in grave declino numerico e di porre un freno alla campagna di sterminio dei cinghiali con il pretesto della peste suina africana. La deregolamentazione della caccia e la campagna di sterminio dei cinghiali sono due notizie che, sinceramente, dopo la vicenda del Covid e dopo tutte le promesse che ci eravamo fatti di avere un atteggiamento diverso rispetto all'ambiente, proprio non ci aspettavamo. Al ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, invece, ENPA chiede di procedere alla riconversione degli allevamenti intensivi, perché sono nemici dell'ambiente e responsabili di un devastante impatto climatico e ambientale, anche a causa dell'utilizzo di prodotti agricoli come il mais e la soia, che sono direttamente responsabili della deforestazione dell'Amazzonia e di altre foreste primarie rimaste sul pianeta. Infine, alle regioni, l'ENPA chiede di emanare calendari venatori entro il 15 giugno che siano finalmente rispettosi delle regole europee, nazionali e del mondo scientifico, senza rispondere nuovamente, come al solito, a condizionamenti e pressioni che arrivano dal mondo venatorio. Siamo assolutamente d'accordo con l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. I'm in a glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Abbiamo parlato della Giornata Mondiale della Biodiversità. A questo termine abusato abbiamo deciso di dedicare la nostra rubrica Lessico dell'Antropocene. Il nostro Francesco Panier ci farà capire cosa intendiamo davvero quando diciamo biodiversità. Lo scorso 22 maggio si celebrava la Giornata Internazionale per la Tutela della Biodiversità, nata per sensibilizzare le persone sul collasso di specie vegetali e animali dovuto allo sviluppo delle società industriali. Se vi ricordate, abbiamo già affrontato questo concetto nelle prime puntate della nostra rubrica, ma vale la pena tornarci per guardarlo da un'altra angolatura. La scorsa volta avevamo problematizzato il fatto che per biodiversità si intenda qualcosa sempre al di fuori delle società umane, una sorta di natura astratta da conservare e proteggere, con azioni illuminate che un umano piuttosto astratto e generico anche lui mette in campo da magnanimo governatore del pianeta. Non per nulla, anche quest'anno la Giornata Internazionale della Biodiversità aveva come slogan For Nature, per la natura, come se questa entità estranea alla società umana dovesse ricevere le nostre attenzioni visto il suo stato di difficoltà. Per afferrare meglio cosa significhi perdere la diversità biologica e come questo sia connessa profondamente con le società umane, può essere utile concentrarsi su una parte di questa diversità, che ha molto a che fare con la nostra quotidianità poi del resto, ed è la biodiversità agricola o agrobiodiversità, anch'essa in gravissimo declino. Pensate che nell'ultimo secolo si è ridotta del 75%. Nonostante si conoscano circa oggi 6.000 specie vegetali coltivabili, quelle effettivamente usate nella produzione del cibo sono appena 200 e il 66% della produzione agricola mondiale è costituito appena da 9 specie: canna da zucchero, riso, mais, frumento, patata, soia, frutto della palma da olio, barbabietola da zucchero e manioca. Questo perché un piccolo numero di imprese hanno imposto, da inizio Novecento ad oggi, l'adozione di un ristretto ventaglio di varietà vegetali uniformi e standardizzate in tutto il mondo, su cui fanno profitti stellari, rivendendo i semi ogni anno agli agricoltori. Nel frattempo, noi ci stiamo abituando a mangiare questo cibo sempre più uguale a se stesso, dalle Americhe all'Asia, passando per l'Europa e l'Africa. Una tendenza che spinge verso l'estinzione migliaia di varietà locali coltivate dalle comunità sui territori, soprattutto nei paesi del sud del mondo. Ci serve quindi tornare a mettere in campo questa agrobiodiversità, per avere colture adattabili ai terreni colpiti dalla crisi climatica e un cibo che permetta una dieta a base vegetale diversificata e nutriente. La morale è: se lottiamo per avere più biodiversità in noi, ne avremo forse anche fuori di noi. Ora lo so cosa cerchi di più, ma non sono io. vedi cos'è quel difetto di te che ci limita, forse un'altra me ti accontenterà. Giornata internazionale celebrata in questi giorni, meno blasonata di quella della biodiversità, è quella promossa da Europark Federation per il 24 maggio, con lo slogan «Noi siamo natura». La giornata europea dei parchi è stata istituita per ricordare il giorno della fondazione dei primi parchi nazionali europei, nati in Svezia nel 1909. In Italia invece si tratta di una costituzione più recente, tanto che i nostri due più antichi parchi nazionali, Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, hanno recentemente compiuto un secolo. Sul portale www.parks.it si trovano dati interessanti sulla biodiversità in Europa. Nel vecchio continente abbiamo il maggior numero di specie animali e vegetali. 1.300 piante e 10.000 animali sono endemiche, cioè vivono solo in Italia. Un primato che dobbiamo proprio alle nostre aree protette, che sono così fondamentali nel tutelare questa ricchezza di specie, a partire da quelle che sono in generale più gravemente minacciate e che, come abbiamo visto, i nostri ministri non stanno tutelando dovutamente. Gittin günden beri tutmuyor hiç kimse elimden titiri ta titi tan ta yürey tiriri ra riri di tam barı da du dey tiri ti tam bir ti di ta tu ta du dey. Ne yapayım şimdi ben, hangi kapıyı çalayım? Gideyim buralardan, en iyisi katlanayım. Ne yapayım şimdi ben, hangi kapıyı çalayım? Gideyim buralardan, en iyisi katlanayım. Oh, oh. Come abbiamo accennato nel sommario, sono stati recentemente pubblicati i risultati del primo monitoraggio nazionale del lupo. L'approfondimento su questo importante censimento è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. "3.300. Tanti sono i lupi che vivono in Italia, ben più dei 2.000 stimati finora. La cifra, anch'essa una stima, basata però su rilevamenti sistematici coordinati dall'ISPRA, l'ente pubblico per la protezione ambientale, è un indicatore importante delle trasformazioni in corso nelle aree interne della nostra penisola. La popolazione di lupi cresce perché sempre più vasti sono gli habitat congeniali a questi animali, così schivi e così legati all'esistenza di ecosistemi integri con elevata biodiversità. Quasi sterminato nel secolo scorso dalla paranoica avversione delle comunità umane, il lupo, che oggi è una specie protetta, ha ripopolato spontaneamente la penisola, grazie alla progressiva ricostituzione delle foreste e alla maggiore estensione delle aree di montagna poco popolate. Secondo il censimento dell'ISPRA, realizzato con oltre 2 anni di lavoro, impegnando più di 3.000 persone, circa 900 lupi vivono nell'arco alpino, gli altri 2.400 nelle regioni peninsulari. Il lupo, spiega il rapporto, occupa quindi una larga parte del paese e nelle regioni peninsulari ha colonizzato la quasi totalità degli ambienti idonei. I tecnici non mancano tuttavia di segnalare alcuni punti critici, in particolare il conflitto fra la presenza dei lupi e le attività di allevamento, nonché l'insidia, giudicata pericolosa, dell'ibridazione fra lupi e cani. Le predazioni delle greggi sono all'origine della moderna avversione per il lupo. Ogni anno molti esemplari sono uccisi da bracconieri, mentre le associazioni di categoria, è successo anche all'indomani della pubblicazione del rapporto dell'ISPRA, non si stancano di chiedere misure di contenimento del lupo, cioè abbattimenti legali, nel tentativo di ridurne il numero. In verità il conflitto allevatori-lupi può e deve essere gestito in altro modo, ossia proteggendo le greggi con i cani pastori ed eventuali recinti. La caccia al lupo, come dimostrano ormai innumerevoli ricerche, è una risposta sbagliata, ingiusta e anche inefficace. E va da sé che noi di Restiamo Animali continuiamo a immaginare un mondo nel quale non ci saranno più allevamenti di alcun animale. Ma sappiamo che questa è una tendenza, un'aspirazione. Nel frattempo si dovrà gestire l'esistente e la fase di cambiamento. Simone Angelici, responsabile veterinario del Parco Nazionale della Maiella e referente del progetto Wolf Next, che unisce 17 parchi italiani, dice che la crescita delle popolazioni di lupi si riscontra in tutta Europa ed è collegata all'abbandono progressivo di campagne e montagne e a un cambiamento ecologico ancora in corso. Questi dati, sostiene Angelici, non devono preoccupare e vanno accolti come uno stimolo per favorire la convivenza con il lupo. I lupi e le loro condizioni di vita sono un buon indicatore della qualità delle relazioni fra animali selvatici e comunità umane. Il censimento dell'ISPRA dimostra che l'Italia è un paese per lupi, ma i bracconaggi, gli investimenti stradali, causa di morte di molti esemplari ogni anno, e la dichiarata avversione degli allevatori e degli amministratori che li sostengono, fanno capire che un vero spirito di convivenza fra umani e animali selvatici in montagna è ancora da conquistare. Quanto alla cosiddetta ibridazione fra lupi e cani, non è detto che sia una minaccia così grave come sostengono gli addetti ai lavori. Dopotutto, la segregazione razziale non è propria della vita selvatica e l'avvenire genetico dei lupi è ancora tutto da scrivere. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. 1000 pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverás, je suis si loin déjà. Cuando volverás, un día o jamás. Come abbiamo visto, il 22 maggio è stata la giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio la giornata europea dei parchi e il 25 maggio è stata la giornata mondiale della lontra. La lontra euroasiatica, il nome scientifico è Lutra lutra, è una delle specie più rare in Italia. Sembra un visone e infatti durante tutto il 1900 la lontra è stata ampiamente cacciata per la sua pelliccia, utilizzata nell'abbigliamento femminile, e per questo è stata sull'orlo dell'estinzione. Oggi questa moda è ormai superata, con grande giovamento della lontra che può riconquistare alcune aree da dove era scomparsa. Si stima che oggi in Italia vivano tra gli 800 e i 1000 individui, ancora però ampiamente al di sotto del limite vitale minimo. Le lontre sono una sottofamiglia di mustelidi dalle abitudini anfibie. Strettamente legata ai corsi d'acqua, è per convivere con l'acqua che la lontra si è evoluta e adattata. Il corpo si è allungato, la pelliccia si è infoltita, le zampe sono palmate e le piccole orecchie e le narici si chiudono quando si immerge. Le lunghe vibrisse le permettono di localizzare le prede anche nelle acque più torbide e di notte. Si nutre principalmente di pesci come alborelle, cavedani, vaironi e anguille. La sua dieta è integrata anche da uccelli acquatici, piccoli mammiferi e granchi di fiume. Le mustelidi dormono galleggiando in acqua con la pancia all'aria. Vi sarà capitato senz'altro di vedere qualche immagine. Se sono in compagnia si tengono per la zampa, in modo che le correnti non le trascinino via. Sembra tenera la lontra, ma in realtà è un astuto predatore senza scrupoli. E non è una specie sociale, preferisce la vita solitaria. Le minacce per questa specie sono oggi note. Si tratta della distruzione degli habitat fluviali, l'inquinamento da sostanze chimiche, gli scarichi urbani e industriali e l'impoverimento della fauna ittica, che è una risorsa fondamentale per questo carnivoro. Inoltre, sfortunatamente, ogni anno diversi esemplari di lontra finiscono investiti lungo le strade, durante i loro spostamenti notturni tra un corso d'acqua e l'altro. Non mancano, purtroppo, anche atti di bracconaggio, dovuti al conflitto che hanno le lontre con i pescatori e con gli allevamenti ittici. Il WWF è molto impegnato a monitorare la lontra e ad attivare progetti di protezione del territorio che la lontra abita. Una curiosità è che l'Università del Molise vanta alcuni dei maggiori esperti mondiali sulla lontra, come la professoressa Anna Loi, impegnata nella salvaguardia di questo sconosciuto e misterioso animale. Tadwik mamont el tene fatigato e dor di me dor di crece e tene tormentado e sto tadwitan Tadwik mamont e tene fatigado e dor di meu dor di crecer e tene tormentado. Per concludere la puntata abbiamo nuovamente sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free al lupo. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ma se vi dicessi che oggi vi do una ricetta per preparare gli occhi di lupo? Ecco, tutti a dire che Palloni l'ha perso il capo ora. Ma che avete capito? Gli occhi di lupo di questa ricetta sono un formato di pasta, tipo mezzi rigatoni, ma lisci. Quindi gli ingredienti per 4 persone con gli occhi di lupo con panelle, melanzana e limone sono 400 g di pasta formato occhi di lupo, 100 g di farina di ceci, 400 ml di acqua, un ciuffetto di prezzemolo, due melanzane, uno spicchio di aglio, origano, il succo di un limone, la scorza di mezzo limone, un peperoncino, sale fine e sale grosso, olio extravergine di oliva. Lavate le melanzane e tagliatele a quadretti. Mettetele in un colapasta con del sale grosso ed un peso sopra. Lasciatele spurgare dall'acqua di vegetazione per un'oretta. Nel frattempo stemperate la farina di ceci con i 400 ml di acqua, sale e pepe. Fate cuocere in una casseruola con un mezzo cucchiaio di olio extravergine per circa 15 minuti a fuoco lento, mescolando con una frusta. Quando il composto sarà cremoso e compatto, aggiungete il prezzemolo tritato finemente, mescolate e togliete dal fuoco. Versate la crema di ceci in un contenitore di vetro spennellato di olio e lasciate raffreddare. Sciacquate le melanzane e fatele asciugare. Tritate l'aglio e il peperoncino e fate soffriggere in padella con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete l'origano e le melanzane e fate cuocere a fuoco medio, aggiustando di sale e pepe. Fate cuocere fino a quando le melanzane saranno morbide. Tagliate la crema di ceci, che nel frattempo si sarà compattata, a quadretti piccoli, circa 2 cm per 2, e friggete in una padella con olio caldo fino a quando le panelle saranno ben dorate. Scolate dall'olio e fate asciugare su carta per frittura. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolate al dente e fate saltare in padella con le melanzane. Aggiungete le panelle ed il succo di limone. Servite guarnendo con la scorza di limone tagliata a lamelle sottili. I got in the pool and called it good, said no. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 644 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.